Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, sono le 8:19 minuti in questo lunedì, caro Oscar. 30 gennaio. La merla. Eh sì, la merla che segna la richiusura del campionato italiano di calcio, però vabbè, non diciamo nulla, si era riaperto, si era richiuso, sai come col freddo si generano le speranze. Esatto. Che tristezza, che mestizia. Che mestizia, vabbè. Che disperazione. Viviamo in un mondo che è fatto di contrapposizioni forti, di bianco e di nero. Sì. Vabbè, ma comunque c'è speranza di riapertura, anche perché per ce questo l'hai con l'Udinese? Ci sono i santi, ecco, c'è con l'Udinese, sì, forse sarebbe. Allora, i santi, sai, esistono perché bisogna appellarsi a loro nelle circostanze che sembrano prive di speranza, come quelle del campionato italiano. E allora, qual è il santo di oggi? Santa Martina. Santa Martina, uno dei classici santi di cui non si sa nulla e che sa di invenzione, perché è considerata martire sotto Alessandro Severo. Alessandro Severo però è un imperatore che non perseguitò i cristiani, anzi è tra quelli che consideravano sospetto. No, sospetto, lo dicono gli studiosi del martirologio, che chi è Giannino per avanzare dubbi? No, lo dico perché gli stessi studiosi del martirologio dicono: beh, peccato che questo imperatore addirittura considerava Cristo nel suo Pantheon, quindi pare un po' complicato. Però insomma, Santa Martina, e auguri a chi si chiama Martina. E poi c'è un classico, classici altri esempi di come si santificava guardando un pochino a questioni di potere. Per esempio, c'è San Pietro I, zar dei Bulgari, morto a 970, e quanti zar, re, imperatori, santi, vabbè, d'accordo. Dopodiché invece una santa della controriforma italiana, perché è la figlia di un principe, del principe Marcantonio Marescotti, che viene monacata contro la sua volontà, un po' come la storia che c'è nei Promessi Sposi di Donna Virginia dell'Eva, la monaca di Monza, e però la fanno santa perché così tutte le ragazze di buona famiglia, primogenite, monacate, capiscono che è meglio non protestare. E questi sono i santi del giorno. Poi per gli avvenimenti più importanti, per me quello più importante di tutti, purtroppo che batte persino l'ascesa di Hitler alla cancelleria, che è meglio non dimenticare, e invece la decapitazione di re Carlo I Stuart, il primo monarca assoluto che voleva mettere troppe tasse, finché poi il suo popolo diciamo ricorre a un metodo un po' spiccio per fargli cambiare idea. Auguri a Marino Bartoletti, che fa gli anni oggi insieme a Antonio Caprarica, e a Sergio Cofferati. Queste sono le cose del giorno. Mentre qui, caro Oscar, il mondo, direi, non l'Italia, non gli Stati Uniti, ma il mondo si interroga sulle mosse del presidente americano Donald Trump. Beh, più che interrogarsi, cioè, si gratta la testa e soprattutto dà di voce a una protesta. Vedi, guarda, è già arrivato senza grande Trump, un nostro ascoltatore, subito così, via WhatsApp ci scrive questo. Trump che ha detto, ha parlato del muro, ma in realtà quasi quasi il muro al confine col Messico è stato superato da questo ordine che ha firmato, che di fatto blocca per 120 giorni tutti i rifugiati, i siriani addirittura invece per sempre, per il momento, e blocca soprattutto l'ingresso in America di cittadini di 7 paesi che sono Siria, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen e Iraq. Sono 7 paesi. Tu lo sai, Obama, quanti siriani ha accolto? Pochi. No, te pochi. Lo dico perché ne ha accolti dal 2011 al 2014 300 l'anno, questo per dire. Dopodiché nel 2015, quando esplode la faccenda della Merkel, nel 2015 sale a una quota, dice, fino a 15.000, non coperta. Questo per dire cosa abbiamo alle spalle negli Stati Uniti, siriani. Però questa cosa di bloccare la cittadinanza, cioè l'ingresso di sette cittadini di 7 paesi, è un po'. Tra l'altro, ieri Reince Priebus, che è il capo di gabinetto della Casa Bianca, intervistato dalla CBS, ha detto dei numeri. E ha detto: guardate, che ieri sono arrivati 325.000 viaggiatori stranieri e ne abbiamo fermati 109. Poi, dopo molti, insomma, dopo qualche domanda, sono stati rilasciati. Alla fine ne hanno tenuti 2, 3, una decina. Cioè, come dire, state facendo un gran Gran Can Can per nulla. Vabbè, che è un Gran Can Can per nulla? Secondo me no. No, no, il problema è che secondo me l'amministrazione... Tentiamo di capire, perché è facile dire c'è Hitler al potere, è un po', diciamo, più consigliabile capire qual è l'ambito in cui vengono assunte queste misure. È l'ambito di un paese in cui nei sei anni, perché gli ultimi due anni dei numeri dell'amministrazione Obama ancora non li abbiamo, 2015-2016, però in sei anni Obama ha espulso più immigrati di quanto non abbia fatto in otto anni Bush, cioè ne ha espulsi 2.400.000 e ci mancano ancora i dati degli ultimi due anni, insomma siamo a 2.800.000, cioè quasi mezzo milione l'anno vengono espulsi, come se l'Italia espellesse 120.000 cittadini del resto del mondo ogni anno, punto numero uno. Punto numero due, i veti temporanei per liste di paesi non sono una novità nazionale americana, nel senso che vennero assunti anche dopo l'11 settembre, anche allora molto criticati, perché generalizzano il sospetto, e questo è ovvio che è sbagliato, e però due faccende sono chiare. Lo staff del presidente non ha saputo dirgli quali categorie andavano esentate, quando anche fosse giusto dare questo segnale per dire arriviamo noi, quindi cambiamo la politica, dobbiamo prenderci un po' di tempo per rivedere le regole, non hanno esentato i docenti, i ricercatori, i titolari di green card, solo adesso si è capito perché sono intervenuti i giudici, i veterani, addirittura chi ha combattuto con la divisa americana. Allora, primo, danno l'idea di non capire bene che cosa maneggiano; secondo, certo, di tutto aveva bisogno gli Stati Uniti, tranne che la porta in faccia, che adesso, come è ovvio, viene sbattuta da Iran e Iraq, quindi per capirci stiamo parlando di... Ovviamente noi chiamiamo anche i nostri ascoltatori a dire la vostra. Ovviamente è normale, adesso arrivano, guarda, tanti, ce ne vuole anche in Italia, viva Trump, è lo slogan, se volete, più semplice, no? Dire finalmente uno che decide qualcosa. Chiamateci all'800 24 0024. Io il sospetto che ho, come dici tu Oscar, è la questione della generalizzazione, cioè un conto è espellere degli immigrati perché sono state fatte delle indagini, e non lo so se sono state fatte delle indagini su tutte. No. Le espulsioni avvengono anche in quel caso, sì, con un filtro amministrativo, cioè su base presuntiva. Devo dire che nel 91% dei casi riguarda gente con precedenti penali, voglio essere chiaro su questo. Esatto. Però appunto dire temporaneamente un cittadino dell'Iran non può entrare negli Stati Uniti generalizza appunto il sospetto. Sì. Per dire, c'è un regista famoso iraniano che ha scritto al New York Times, dice dovevo venire a Hollywood per gli Oscar, la cosa clamorosa, e non verrò. Come si vede da tutti i vertici delle grandi multinazionali di internet, è che gli Stati Uniti sono un paese costruito sull'idea del melting pot di gente che viene da tutto il mondo. Certo. No? Allora, a maggior ragione, io che capisco le basi di un cambio della politica dell'immigrazione, ripeto, perché altrimenti si va avanti cacciando con mezzo milione l'anno, si va avanti dimenticando che abbiamo già 1400 chilometri di muro costruito da Clinton su Messico e così via, si capisce che non si gestisce più. Capisco cambiare marcia, cambiarla con autogol di totale irragionevolezza è un autogol pure per chi la vuole cambiare la marcia, secondo me. Questo sì, poi i paesi, voglio dire, si è sempre detto che 19 su 20 attentatori dell'11 settembre vengono dall'Arabia Saudita, che però sempre viene lasciata immacolata perché magari Trump ha degli hotel lì, magari ha dei soldi, insomma. L'Arabia Saudita no. Però tra l'altro il portavoce della Casa Bianca ha detto si potrebbe fare allargandolo, non so, al Pakistan, cioè ha buttato lì un nome di un altro paese così molto popoloso, sempre musulmano, ovviamente anche lì, ecco, sempre musulmano, tutti musulmani casualmente. No, ma certo che c'è una questione adesso, ma c'è una questione perché con l'Islam, c'è una questione con l'Islam e il terrorismo, non è questo il punto. Il problema è che così ha realizzato un autogol, secondo me un autogol per la stessa causa che è legittimamente fondata nell'evoluzione americana, perché tra l'altro la contestualità della prima azione di nuovo stivale sul campo Yemen anti-Al-Qaeda è, cioè, hanno perso un velivolo molto costoso, hanno molto perso un uomo, hanno fatto molte vittime sul campo, molte vittime civili, questo sto dicendo, sì hanno fatto molte vittime civili sul campo, quindi la nuova strategia vediamo dove porta, perché a volte si vuole essere muscolari e poi non si ottengono migliori risultati di chi muscolare non era. Però Oscar, adesso veniamo anche un po' alle cose italiane, poi io mi sono tenuto da parte l'intervista di Alfano perché so che c'è una frase che secondo me dopo la pubblicità secondo me l'hai capita bene. Ti stuzzicherà. L'hai capita bene, però ho detto ne parliamo tra poco. No, però in Italia giustamente ci sono anche tante notizie che ci hanno colpito. Per esempio questa dell'ascensore sociale, a me ha colpito molto, no? L'ascensore sociale che tu dici spesso, me lo dice Oscar anche quando andiamo al bar, discutiamo, cioè, è bloccato. In Italia ormai il ceto medio non esiste più, ci sono ricchi sempre più ricchi. Chi appartiene, e purtroppo, chi nasce nelle classi di reddito più basso, oggi è tornato, come decenni fa non era, ad avere la relativa certezza che morirà anche egli. Ma l'hai sentito anche un altro magistrato, ha detto, fare il magistrato è una cosa per ricchi, bisogna nascere ricchi, bisogna essere ricchi, non se lo possono permettere. Sono molto colpito dal fatto che i magistrati credano che riguardi solo loro, questo riguarda tutte le libere professioni in Italia, per cui o c'è la famiglia che ti finanzia per tutti i primi anni in cui sei entrato in uno studio e fai solo fotocopie. I magistrati mi pare che pensino un po' troppo alle loro pensioni, scambiandole come una questione di libertà e democrazia, se vuoi il mio commento. Per esempio, che paese è? Tante volte lo si giudica anche da alcune fotografie, da alcune notizie. Un paese in cui i laureati fanno in fila per diventare chuscià. No? Lustrascarpe. Lustrascarpe, non è lo straordinario film. Non è che voglio fare l'attore, no. No, per fare i lustrascarpe, è una professione, voglio dire, che si tenta di riportare in auge, rispettabilissima come tutte le professioni. Ma vogliamo salutare Nunzio Reina, che è presidente del Confartigianato Palermo. Buongiorno. Buongiorno, e grazie buongiorno di essere a voi qui. E grazie per l'invito. Allora, voi avete lanciato Confartigianato Palermo un bando vero e proprio per reclutare formare lustrascarpe. Sì, non solo formare, ma dare immediatamente una possibilità di lavoro. Perché formare si può perdere tempo e poi non ottenere lavoro, come spesse volte avviene in Sicilia. Sì. Invece noi abbiamo deciso di realizzare nel più breve tempo possibile, non il bando, perché veda, io avevo paura che molti non volessero intraprendere questa attività. E ho detto mandate la email, perché non volevo che molti ragazzi si presentassero alle porte di Confartigianato per poter poi partecipare alla selezione e poi poter fare parte della cooperativa. Invece, contro ogni più rosea previsione, hanno scritto. Sono arrivati 75 curriculum. È vero anche di laureati? Molti laureati. Nel primo passaggio io pensavo che era uno scherzo. Quando li ho incontrati ho capito che non era così e che una richiesta di lavoro come la nostra è stata ben interpretata e molti vogliono fare questa attività. Però anche lei sarà stato colpito dal fatto che, adesso ripeto, è una professione rispettabilissima come tutti, non voglio fare classifiche, ma che uno studi fino alla laurea e poi risponda a una richiesta di lavoro per lustrascarpe, a lei ha fatto suscitare qualche considerazione oppure no? Sicuramente, però io faccio una precisazione, ma andare in un call center è meglio di poter fare il lustrascarpe e poter dimostrare le proprie capacità. No, ma infatti non è questione di classifica, quindi, teoria un laureato non va neanche, in teoria, no? Uno non studia fino a una laurea per andare in un call center. Io la pensavo così, oggi vedo che non è così, ci sono possibilità di lavoro e chiunque si inserisce onde evitare di andare fuori o tentare la scalata in altri paesi per essere valorizzato. Quindi ben venga quello che hanno deciso. Ben venga, va bene. Ben venga lustrascarpe. So, Oscar, perché c'è Oscar che non è. No, sei d'accordo col presidente oppure no? Sì e no. Sì e no. Non credo di essere d'accordo con l'idea che è meglio fare lustrascarpe piuttosto che andare in altri paesi. Io tengo proprio in queste settimane una rassegna con i nostri giovani ascoltatori, ma anche meno giovani, anche quarantenni che hanno fatto la scelta 15 anni fa. E non considero antipatriottico capire che nel mondo l'Italia non offre, grazie alle generazioni e alle classi dirigenti, dell'età, delle persone che comandano l'Italia, alla quale appartiene anche lei, che hanno considerato un mondo in cui garantire solo chi è più avanti con l'età. In quel caso i giovani, piuttosto che fare lustrascarpe, secondo me bisogna dirgli andate fuori e finché questa Italia non cambia regole non tornate, e di sicuro prima di fare lustrascarpe qua c'è un mondo che offre 10, 100, 1000, 1 milione di volte cose più interessanti fuori. Io la penso così, non ho questa cosa patriottica di dire che dobbiamo rimanere qua fermi alle nostre tradizioni. Lo sa meglio di me, questa cosa che avete lanciato è un simboletto, non può dare alcun contributo, certo. Dopodiché complimenti all'operazione di comunicazione, ma stiamo parlando di una cosa che non è che può essere venuta come una risposta, ma non ce l'ho con lei, voi avete fatto benissimo, però tentiamo anche di capire che il fondo è dare risposte ordinamentali sulle politiche attive del lavoro, eccetera eccetera, altrimenti tutto il resto non lo facciamo, continuiamo a chiedere i prepensionamenti per chi un lavoro ce l'ha, non sto parlando del lavoro autonomo perché lo fanno i sindacati di lavoratori dipendenti, e poi ai giovani diciamo però certo venite qui con la laurea perché volete fare una cosa di questo genere, ma è conseguente, cioè c'è un problema che le classi dirigenti di questo paese, di chi appartiene a certe corti anagrafiche, dovrebbero iniziare il discorso con perdono, pietà, chiedo scusa per gli errori che abbiamo fatto nei confronti di chi è più giovane, ma questa è un'opinione mia. Dottor Giannino, comunque io tengo a precisare una cosa, le scuole professionali in Sicilia in modo particolare hanno avuto dei costi esagerati e non hanno formato niente. Anzi, il fatto di avere parlato dell'ustascarpe, ci sono tanti altri vecchi mestieri che si possono recuperare, dare formazione vera e poter creare veramente dei lavoratori autonomi nella nostra terra della Sicilia, cosa che non si è fatto prima. Quindi la mia provocazione, che all'inizio era una provocazione, oggi è poter dare effettivamente dei posti di lavoro, ben venga, in modo che almeno si smuova qualcuno e si tenti di dare effettivamente la possibilità di lavoro ai giovani e agli anziani. Noi abbiamo avuto pure parecchi anziani che hanno perso il posto di lavoro e che ora si vogliono rimettere in gioco. Quindi bisogna valutare le due cose, il giovane e l'anziano, e dare comunque una possibilità di sopravvivenza in questo modo. E voi lo fate questo anche così. Quando vedremo, Presidente, i primi lustrascarpe, cioè formati e con un lavoro a lustrascarpe? In primavera avremo i lustrascarpe a Palermo già posizionati e che operano. E quindi mi farebbe piacere la sua presenza a Palermo. Va bene, ok, verremo. Io sono perfettamente d'accordo con lei. No, ma si figuri, ma guarda, la mia è una polemica che lei ha colto, ci ha aggiunto un elemento, nel senso che io voglio sperare che coloro che avranno questo percorso di formazione si rifiuteranno categoricamente, per esempio, di pulire le scarpe a chi ha la responsabilità di aver utilizzato per vent'anni i fondi della formazione in Sicilia per ciò di cui si occupano le procure. Sulla carta d'identità, no, lei mi presenti la carta d'identità? Lei viene dall'assessorato delle politiche di formazione della Regione Sicilia? Non lo facciamo. Presidente, intanto la ringraziamo. Grazie. Nunzio Reina, presidente Confartigianato Palermo. Allora, qua, caro Oscar, andiamo in pubblicità perché ci sono tanti che ci chiamano su Trump. Ah, io credevo che ci chiamassero per la proposta di Renzi di candidare Bersani sindaco di Piacenza, l'hai vista? Per liberarsene. Ma Bersani ha già detto sindaco di Piacenza. Ho già dato. Certo, il livello di questo confronto sul ring del PD è molto interessante. È molto interessante, insomma, volano coltellate, che strano. Comunque, dai, dopo la pubblicità rientriamo, state con noi. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, alle 8:40 minuti, guarda quanti ci chiamano. Andiamo in ordine come li vedo, magari uno è lì da un po' più tempo. Abbiate pazienza, siate concisi, così parliamo tutti. Antonio da Roma, buongiorno Antonio. Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, che vi ascolto sempre. Bene. Complimenti. Io chiamo per fare un attimo due precisazioni brevi, quelle riguardo Trump innanzitutto. Sì. Innanzitutto le proteste che stanno facendo all'interno degli aeroporti alcuni cittadini statunitensi, di origine poi straniera, ricordiamolo, che mi sembrano non rispettare poi quello che è l'esito delle urne, nel senso che la tanto amata democrazia, se ha dato questo esito, questo risultato andrebbe rispettato, cioè non è che si può rispettare soltanto se uno fa un ordine, se uno non è d'accordo con una decisione potrà anche protestare, no? Ah sì certo, certamente, cioè, la democrazia non è che sospende ogni forma di protesta, Alessandro, anzi. Però poi dopo la democrazia non deve permettere però alcune forme di protesta di cui alcuni incappucciati e vestiti di nero vanno a spasciare le vetrine in giro per la città, su questo siamo d'accordo, siamo d'accordo. La seconda precisazione la faccio sempre molto breve, è quella riguardo il famoso muro di Trump. Allora, ricordiamoci innanzitutto che non è un'idea di Trump, certo, ma allora potremmo dire che è un'idea di cittadini che l'hanno votato, ma che la cosa più importante è che questo muro già esiste ed è stato costruito nel 1994 sul confine statunitense appunto con il Messico da Clinton. Certo, l'abbiamo detto prima Oscar, ma l'ha detto prima Oscar. Il muro di Trump. Ha detto il muro di Clinton. Clinton che Clinton è parziale, ne ha fatti 1400 chilometri, il confine è 3400, bisogna... A parte, poi Oscar, secondo me il muro, cioè, a parte sono due cose diverse, perché adesso Trump ha spostato dal muro. Il muro, io non sono uno di quelli che dicono ah i muri, i muri. Il muro a propria volta, cioè... è giustificato dal fatto che dei quei 500.000 l'anno espulsi, ripeto, di questo stiamo parlando da anni e anni e anni dall'America, la percentuale più elevata, straordinariamente più elevata, ohimè, sono messicani. Infatti, questo è il punto, di rinasce il muro di Clinton. Certo, ma perché è normale che uno entri illegalmente in un altro paese? No, non è normale, c'è questa cultura per cui nessuna frontiera, nessun confine, uno va dove vuole. No, uno spacciatore che passa a me non va. Quindi comunque Antonio, abituiamoci, perché la presidenza Trump in ogni caso, anche in questo provvedimento che secondo me non è stato ben tarato, perché ripeto è un autogol per la linea di cui sono secondo me giustamente ragionalmente portatori, abituati, perché l'impugnativa per esempio che viene dallo stato della California, quindi è diventata immediatamente una crisi istituzionale, sarà uno dei tratti dominanti della presidenza di Trump se viene impostata così. Il resto 15 stati hanno contestato, ti assicuro che vediamo se entro 6 mesi non c'è già una richiesta di impeachment. Io ci metto la scommessa, scommetto, perché è ovvio che i tanti giudici funzionari nominati dai democratici e che sono insomma portatori di un indirizzo politico in questo, cioè nel senso che anche la giustizia negli Stati Uniti, la giustizia negli Stati Uniti non vive di questa presunzione un po' ipocrita italiana di essere terza e apolitica. Lì le nomine di giudici, circuito di giudici federali sono nomine politiche, quindi sai com'è, Antonio. Giuliano da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Mila, buongiorno Giannino. Io volevo intervenire riguardo il clamore che sta facendo Trump su queste cose qua. Volevo portare l'attenzione di tutti quanti, perché penso che molti non girano. Io ho girato Medio Oriente per 6 anni, un anno che ho smesso, ma insomma mi sono fatto dei bei giri tra Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi, India e roba del genere. Quello che ho notato è che il razzismo che si dà oggi a Trump, se lo guardiamo per benino, c'è già abbastanza da parte dei paesi medio orientali riverso l'Europa o l'America. La quantità di documenti che c'è da fare per riuscire ad andare in questi paesi a lavorare per loro. Certo. E comunque come trattano loro i somali, i bangalesi, gli indiani e tutte quelle persone che vanno in questi paesi a cercare lavoro, che sono trattati da bestie da Soma, e comunque c'è sempre questo ICAMA, che è il permesso di lavoro, che è in mano ai locali medio orientali. Se non fai il bravo, se non ti sottometti, ti mandano a casa e perdi il lavoro. Ci stiamo a preoccupare di una persona che cerca di limitare l'ingresso a persone che possono essere terroristi, ma anche no, per carità, dove invece nel Medio Oriente abbiamo razzisti di primo luogo, protezionisti di primo luogo, e dove un Israele che è contornato da tutti i paesi di origine islamica non ha voli con l'Arabia Saudita, non ha voli con la Giordania, non ha voli con gli Emirati Arabi, perché si odiano. A Gerusalemme Est non si può entrare una persona, e quindi È chiaro, adesso ha messo tante cose Giuliano, il problema è dobbiamo adottare le stesse procedure dei paesi appunto, autoritari, perché lei ha citato alcuni paesi più democratici, altri Arabia Saudita, Qatar, sono di quelli un tempo avrei detto che la Turchia, oggi non lo dico più neanche della Turchia. Non sono democrazie, bisogna capire se proprio perché bisogna scegliere norme diverse e più dure, bisogna stare molto attenti a come le si fa e agli effetti che determinano. Questa è la mia opinione. Invece Massimo da Firenze. Sì, buongiorno. Allora, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Sì, sì. Allora, dunque, io volevo essere sintetico. Trump ha preso dei provvedimenti che l'11 settembre all'America dovrebbe già aver dato un bell'insegnamento su queste cose, va bene? Io reputo che faccia molto bene, per il semplice motivo che ogni qualvolta succede qualcosa e muoiono delle persone, si reclama che questa gente non deve entrare, non deve fare, poi si emettano dei provvedimenti importanti e seri a pro della popolazione. Ci sono le critiche. Reclama. Ho capito, però cioè, qua questa incongruenza anche in Italia è la stessa. Massimo, però non so, ci dimentichiamo che i terroristi che hanno colpito in Europa sono nati e cresciuti in Europa ultimamente e non hanno preso un aereo venendo qui. Ci dimentichiamo che l'11 settembre 19 su 20 sono originari dell'Arabia Saudita gli attentatori, e l'Arabia Saudita non è in quell'elenco di paesi bloccati. Non lo so, ecco, io non dico, Oscar, che non si debbano prendere provvedimenti, ma se il provvedimento poi è centrato, è un qualcosa, come dire, che pesca nel mucchio, dico, È efficace? Proprio pragmaticamente, sì o no? È efficace a fermare i potenziali terroristi? Questo non mi sembra molto efficace. Tra l'altro, la cosa che mi colpisce è lo staff del presidente. È possibile che con un presidential order di questo impatto nessuno gli dica: guarda, che dobbiamo escludere i veterani, dobbiamo escludere quelli della green card, dobbiamo escludere i docenti, i ricercatori. Ecco, non pensare a questo. Cari ascoltatori, ripeto, io sono favorevole a una scelta più rigorosa sul controllo dell'immigrazione di chi entra, ma forse. Lo Stato più potente del mondo è la democrazia. Se assume provvedimenti dando l'idea di avere uno staff presidenziale non in grado di prevedere ex ante le conseguenze reali e quelle di comunicazioni, beh iniziamo ad avere un problema. Però Oscar, qua te la devo dire, Alfano. Alfano su... No, vabbè, adesso non ridiamo. No, bisogna mischiare l'alto e il basso, no, hai ragione. No! Ministro degli Esteri, mi ha molto colpito questa frase sul Corriere, dicendo a un certo punto Alfano dice: sono sicuro che è proprio la nostra umanità ad aver inciso sulla nostra sicurezza. Sì, che certo. Vuol dire? Ma vuol dire, lo sai, che vuol dire il dubbio che hai avanzato una rassegna stampa, è fondato. Stringere l'occhiolino al possibile finanziatore. Di più. Lo sai che noi paghiamo per tutti i nostri ostaggi fior di soldi, sai che tutto il mondo ride che noi diciamo che non paghiamo, no? Sai che giustamente a questo punto ci sono anche famiglie italiane, quando ci sono ostaggi di mesi e mesi, addirittura di anni, che dicono: allora fateci capire per chi pagate di più subito e per chi no. Questo dice siamo Alfano. Salvi per la nostra umanità, siamo salvi perché paghiamo e perché abbiamo sempre trattato indirettamente con i terroristi. Naturalmente questa frase farebbe insorgere certo, i rappresentanti delle istituzioni italiane, però lo sapete meglio di me, noi dagli anni 70 abbiamo un protocollo, quello diciamo si chiamava protocollo Moro ai tempi, però così è, e nei confronti dell'evoluzione delle diverse minacce dal Medio Oriente sono venute in forme terroristiche, abbiamo adattato diciamo un'ampia segnaletica, ecco, chiamiamola così, in termini di intelligence. Umanità, si chiama umanità, no? Umanità. Oscar, allora, questi argomenti e poi le telefonate ce le teniamo anche per i prossimi giorni, perché ce li portiamo avanti. Credo che questa vicenda è una di quelle che ci porteremo avanti nel tempo. Però vogliamo chiudere la puntata oggi. Abbiamo chiamato anche una scrittrice, una giornalista, una collega che ha scritto un libro, perché c'è una notizia che ci ha colpito ed è uscita su Repubblica venerdì. Il coprifuoco, però non quello per i terroristi. No, qui parliamo di alcol adolescenti, quindi anche un tema molto interessante per tutti coloro che ci ascoltano, hanno magari figli in età 14, 15, 13 anni, eccetera. Purtroppo si abbassa sempre. C'è il protocollo islandese che pare funzioni a meraviglia. Nel senso che hanno ridotto molto il numero di adolescenti che si ubriacano. E la prima regola che hanno adottato è coprifuoco per i sedicenni oltre le 22. Basta, in casa. In estate le mezzanotte. Capisci che in Islanda, io non so se tu ci sei mai stato, ma in Islanda secondo me non è che rinuncino a molto. Però questa è la mia idea, ecco. Sì. Cioè, nel senso che non è proprio un paese dove la vita... Questa è la mia sensazione. Quindi, prima regola, controllo delle famiglie in casa, controllo sociale. Vogliamo chiedere e salutiamo Alessandra Di Pietro, che ha scritto il libro Il gioco della bottiglia, l'alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Grazie allora, per avermi tenuto in onda, perché mi è piaciuta tutta la discussione e anche quello che avete detto appena detto dell'Islanda. Dell'Islanda. Ecco, è questa una soluzione che si può... che l'Islanda cerca di esportare, ci sono molte città europee che vogliono l'Islanda, che vogliono importare questo modello. Sì, sai che l'hanno già importato a Santa Severina, a Crotone, hanno provato ad applicare il modello e pare stia funzionando. Ecco, Santa Severina rispetto all'Islanda possiamo considerarla un po' gli antipodi. In proporzione ma anche una metropoli dell'Islanda, perché l'Islanda conta 320.000 abitanti, tutta l'Islanda. Però voglio dire, funziona. Beh, è chiaro, se tieni un adolescente chiuso a chiave in casa col controllo dei genitori, è ovvio che è più difficile che beva, no? Sì, esatto. Però il coprifuoco è solo uno dei tre punti cardini del programma che l'Islanda ha adottato. L'altro punto chiave è l'inserimento dei ragazzi in tantissimi programmi, sia di sport... sia di attività ricreative. E l'altra l'altra cosa è tenerli in casa, sì, ma con il coinvolgimento dei genitori. Quindi e tra l'altro di mettere in relazione i ragazzi con i genitori, allora, in un momento in cui non c'erano. Sul terzo punto l'Italia è indietrissimo su qualunque norma di coordinamento carichi familiari lavoro, perché lo sappiamo che è così. Siamo un paese che ha la più bassa partecipazione tra i paesi avanzati, tranne la Grecia, di donne al mercato del lavoro, perché non capiamo che i paesi in cui c'è una più elevata propensione alla maternità sono quelli in cui si mettono le donne e cominciano a lavorare meglio. Quindi punto numero due, punto numero tre, colpa della politica, prima di dire adottiamo il modello islandese. Punto numero due, voglio vedere davvero nelle aree desolate del sud italiano questo fervore di iniziative sportive, di inserimento culturale, eccetera eccetera. Quindi anche lì mi sembra difficilmente, cioè, io la vedo come una cosa che si risolve: chiudere a chiave i figli a casa. Auguri a chi lo fa, perché a quel punto ti si rivoltano contro. Ma guarda, a parte il fatto che li chiudi dentro casa e appena ti distrai un attimo scorrono le bottiglie che c'hanno i genitori, devi agire alla morte. Ma infatti è interessante, Alessandra, nel titolo anche del tuo libro, quello che non sappiamo che cos'è nel rapporto, nei confronti dei nostri adolescenti al rapporto con l'alcol, esattamente che cosa non sappiamo noi quello genitori. Quello che non sappiamo cambia spesso da figlio a figlio, e quello che non sappiamo è esattamente quello che non ascoltiamo, perché nell'ansia della prestazione, di essere bravi, impartiamo le prediche e non ascoltiamo quello che hanno da dirci. All'interno di una relazione in cui tu ascolti, probabilmente la soluzione te la dà lui stesso. Allora, quello che non sappiamo spesso è che cosa è il vero disagio che poi spinge un ragazzo a cercare uno stordimento dentro l'alcol, perché una avventura dentro l'alcol, sporadica, episodica, credo faccia parte della narrazione della vita della stragrande maggioranza di tutti il noi. Il problema è che si è abbassata di molto, e si è abbassata anche di molto l'età. Dell'approccio all'alcol. Esatto, l'età dell'approccio all'alcol, però attenzione, non tanto dell'approccio all'alcol, come in Italia è sempre stato dentro una tradizione da paese bagnato, diciamo, da paese che usa l'alcol. Un approccio sbagliato, intendevo, un approccio... È un approccio in cui nella socializzazione tra pari, e quindi quando si esce, quando si sta fuori, quando si sta con gli amici, l'alcol è usato come una sostanza psicotropa. Quello è il tipo di approccio che si abbassa. Lo stordimento. Ecco, lo stordimento. Allora, lo stordimento, se non è una eccezione, se non è un fatto casuale, ma è un fatto sistematico, è ovvio che è il sintomo di qualcosa che non sappiamo, ma non la sapremo mai se non ascoltiamo quello che ha da dirci il figlio, perché altrimenti la scusa generale, perché sono generazioni perdute, invece noi eravamo più bravi, come ben sappiamo. Sì, è il predicozzo, è il classico predicozzo, bravo, che capito, si ritorce contro. Noi siamo più bravi, adesso ti sistemo io. I nostri tempi, quando c'era lui. No, ma le diciamo così, ma io lo so che poi Brenno e Minerva avranno delle, dei lucchetti nelle chiavi di casa, perché Oscar fa tanto il liberale, poi dopo troveranno le serrature cambiate, saranno all'interno, faranno fatica ad uscire. Non hai capito, i lucchetti li riserveranno a me. La mamma darà loro le chiavi di tutto. A casa mia c'è un imposto. Stazione è molto divergente per il momento tra il lassismo totale materno e invece il tentativo. Brenno e Minerva, verremo a liberarvi quando vorrete andare. No, ma sarò, guarda, mettono in galera a me, ma questo è ovvio, e ci sarà il plauso di tutti, questo, figura. No, vabbè, dai, abbiamo anche ironizzato, in realtà il tema è molto molto serio, perché come si vede, insomma, secondo me risolvere tutto, dice, chiudiamoli a chiave, non è un granché. Ringraziamo comunque Alessandra Di Pietro, ricordiamo il suo libro. Leggete il libro perché vale la pena. Il gioco della bottiglia, alcol e adolescenti, quello che non sappiamo. E qui Trump ce lo porteremo avanti, il PD ce lo porteremo avanti. Solo una cosa non cambia mai, la Juve. Questo è il punto. Nel nostro orizzonte c'è questa certezza. Io quando vedo bianco-nero, ieri ho visto troppo bianco-nero. Ma la Coppa, non lo so. Ma la Supercoppa, però. La Supercoppa intanto noi ce l'abbiamo. Vabbè, consoliamoci così. Dai, a domani. A proper wall, not a wall that's this high like they have now. They have little toy walls. You talk about a real wall, impenetrable. I'm talking about a real wall.